fango, marrone, cacca, melmo, schifo, lerciume, autunno, maglioni, pantaloni, ringhiere vecchie, mobili, terra umidiccia, vermetti, foglie putrefatte, scivoloni, scarpe sporche, cane umidone, freschinco, profagia, sala omofobia, cacca molla, ferita infetta, putrescenza, mummia, fetore, ciao il motorino, orso bruno, crosta del formaggio, onto, grumi di capelli, cappelli, infissi, pavimenti, scarponi, divani, ecopelle, giacche, moquette, sprofondare, instabilità, trattenere, fatica, piantar bastoncini, spalmare, scie, tracce, impronte, storia, sterrato, multa, argini, tronchi, bambini, Transilvania, macchie secche di sangue, arte contemporanea, acquario, cane.